24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. E piace a Callisto, non l'hanno più visto. E piace a Manolo, che ama il volo. E piace a Donato, che fa il carcerato. E piace a Lulu, con i suoi occhi blu. E che c'ho scritto Giocondor? Lo voglio dire a tutti, io non c'ho scritto Giocondor in testa, l'ho imparato fin da bambino. E al momento opportuno lo dimostrerò, nel senso che giocheremo all'attacco. E allora si è capito, non c'ho scritto Giocondor in fronte, in testa, così il premier Enrico Letta, mamma mia che tuffo nel passato, io ero piccolino quel carosello, forse era un po' più grandicello. Paolo Del Debbio, che voglio subito salutare, buongiorno. Buongiorno. Del Debbio, era un po' più grandicello, quel carosello lì, se lo ricordava, no? Giocondor. Ero già un po' Giocondor anch'io. No, perché? Non so se lo ricordava. Vladimir Luxuria, buongiorno, benvenuta. Te lo ricordo. Buongiorno, io ricordo la Gioconda al Louvre. Ah vabbè, quella, lo sfoggio di cultura di Vladimir. No, a proposito di musei, dai. Ah, musei, ma musei quale? Letta. Questo è un po' museo, dai. Un po' museo. Va bene, questo è 24 mattino, buongiorno. Abbiamo subito iniziato con i Giocondi e i Giocondor. Questo è il venerdì, giorno in cui Peter Bescapè in regia è contentissimo perché va per montagne e per bombardini. Miriam Lucchetti è contentissima ed è là e la saluto perché è venerdì e dice c'è il weekend e così due giorni dormo. E allora siamo tutti pronti a aprire il Barlamento. Caffè si può avere. Caffè volentieri a tutti quanti. A tutti quanti offre come sempre Nicole Minetti. Che fine ha fatto Nicole Minetti? Proprio è scomparsa. Vabbè, come avete sentito, c'è Paolo Del Debbio che conduce Quinta Colonna su Rete 4 ogni sera e poi lunedì in versione. Come il fardello da portarsi sulle spalle ogni sera. Che vuol fare? E poi Vladimir Luxuria, che è passato anche a Milano a presentare il suo libro, però non sono venuto a vedere l'Italia migliore. Io ti ho aspettato, guardavo tra la gente, ritardato di un quarto d'ora, certo, era proprio, eri proprio qui, proprio giusto, perché se non c'ero io non si poteva fare niente. Ma per favore, allora, questa di Giocondor, ma io l'ho capita, Paolo Del Debbio, l'ho capita così dai retroscena della politica. Letta è un po' arrabbiato. Cioè, anche sta cosa di Berlusconi, dice basta ballare la rumba sulle dichiarazioni di Berlusconi quotidiane, questo è il retroscena di Repubblica, cioè, adesso vado all'attacco, basta. E perché va all'attacco Del Debbio? Non lo so, soprattutto non so cosa significa per Letta andare all'attacco, perché non ce lo vedo, insomma, ecco, non lo vedo uno più da mediazione, da equilibrio, Letta all'attacco non ci sta, è anche cacofonico, insomma. Letta all'attacco, effettivamente, attacco Letta. Beh, però forse si è un po' stancato che tutti i giorni sta sulla, no, su questa graticola di dichiarazioni. Non è che sta presiedendo una proloco di bocce, insomma, no? Presiedendo un governo dove tra con problemi notevoli. E si vede perché non fanno praticamente nulla e in più c'è un leader politico che sta per essere buttato fuori dal Senato e sicché insomma è chiaro che ci sia la rumba, no? E c'è una condanna, è stato, no, ma forse è quello, Vladimir forse si è stancato di sentirsi sempre, come dire, di vedere un po' troppe dichiarazioni di Berlusconi, anche quando ha detto in Italia non c'è alcun perseguitato dalla magistratura. Letta ha detto chiaro così, Vladimir, è quello che lo fa arrabbiare secondo te? A parte che io non credo mai a quelli che dicono adesso vado all'attacco, perché o uno va all'attacco direttamente, non è che uno l'annuncia vado all'attacco, poi sinceramente io non ci credo, secondo me Letta è la persona più serena di questo mondo, altro che graticola, Lui sa benissimo che Berlusconi non farà cadere il governo, lui sta lì, poi ognuno fa la sua parte, un po' di sceneggiate, sì. Ma sanno bene che non conviene a nessuno far cadere questo governo, soprattutto credo anche al PDL, quindi, anzi scusate, Forza Italia, hanno fatto il mausoleo, quindi per carità voglio... No, come il mausoleo? Sì, la nuova sede di Forza Italia sembra il mausoleo di Berlusconi, sinceramente. Sì, ci sono un po' troppe foto effettivamente, pare di... queste cose marmoree con queste scritte, mamma mia che paura. Quindi insomma, secondo me in realtà è tutto un gioco delle parti, ognuno fa finta, ma poi... Se si voleva far cadere il governo, Berlusconi lo avrebbe detto, anzi nel suo discorso ha detto continuerò a essere il leader di Forza Italia decaduto meno, quindi in realtà l'ha già accettato, sì. E sarà all'esterno, sarà decaduto. Non vedo nessun pericolo per il governo. Nessun pericolo, tutto tranquillo, sono schermaglie, hai capito Del Debbio, schermaglie. Non... E c'ha ragione. Sono schermaglie, è come la Democrazia Cristiana, è così. Ma non è che vengano da un'altra storia. No, presidente e vicepresidente, più o meno sì, io lo dico sempre, no, più o meno sono due democristiani, ma certo, no, io l'ho sempre detto, moriremo democristiani e quindi ci terremo questo. Vabbè, ma io voglio un attimo accantonare la politica, perché per me i giornali lo mettono tanto in primo piano, ancora una volta è il Papa il protagonista, il Papa che ha fatto un'intervista anche in questo modo storica, civiltà cattolica, ha parlato con la rivista dei Gesuiti, e il Papa, oh Vladimir Luxuria, hai sentito, ha aperto, l'ha detto, la Chiesa non giudichi gli omosessuali, ma giudichi sempre, deve guardare alla persona, deve essere inclusiva. Ha detto, insomma, nessuna ossessione sul divorzio, sulle persone divorziate, bisogna comprendere le situazioni a situazioni sull'aborto. Adesso noi non pensiamo che il Papa voglia rompere la dottrina, questo no, però insomma sono parole importanti, che ne pensi? Le rivoluzioni al Vaticano si fanno un po' per volta, non è che si fanno tutte di colpo, sicuramente è un linguaggio nuovo, questo bisogna dirlo, e soprattutto rispetto al precedente che invece insomma voleva la messa in latino e tutto, insomma questo è un, credo sia un Papa che vuole aprire la Chiesa alla società, che vuole che le chiese siano più affollate, che vuole che la fede non deve essere tolta, il diritto alla fede non deve essere tolta alla gente in base all'orientamento sessuale, in base al fatto di poter dare la comunione anche a una persona che ha fatto un divorzio. Io ci ho sempre creduto alla modernità di questo Papa, sin dall'inizio, dal suo linguaggio, dal suo essere più vicino alla gente, ho subito espresso la mia simpatia e devo dire che l'istinto mi sta dando ragione, perché insomma le dichiarazioni che ha fatto anche sugli omosessuali come feriti sociali quando si sentono esclusi dalla Chiesa, insomma sono dichiarazioni ma no, solo da Don Gallo, no ma molto molto forti, Del Debbio, cioè il Papa dice quando mi chiedono degli omosessuali dico, ma Dio quando guarda una persona omosessuale secondo te ne approva l'esistenza con affetto o la respinge condannandola? Ovviamente la domanda è retorica, no? Dice il Papa, bisogna guardare alla persona. E poi sull'aborto, sul divorzio, Del Debbio, ma che Papa è? Cioè, ci stiamo... È un gesuita. E quindi i gesuiti hanno sempre avuto attenzione alla persona più che... Non hanno mai considerato la persona, ora faccio un discorso un po' più colto del solito, diciamo. Non hanno mai considerato la persona come un caso morale, ma sempre come appunto una portatrice di esistenza, di problemi, eccetera, eccetera. Furono già condannati da Pascal e da tutti questi perché appunto si occupavano dei peccatori, non le lettere provinciali, non diciamo appunto si occupavano del peccatore più che del peccato, insomma, sì, ecco, diciamo sì. Così. E questo Papa è in questa linea qui. In questa linea come qui. Era Martini, no? Che era un gesuita. E c'è il gesuita anche lui, certo. Si capisce da questo, come tanti, tantissimi altri casi nella loro. Ma sono parole che rispecchiano appunto il fatto di essere gesuita, rispecchiano la storia personale del Papa, oppure sono parole che fanno intravedere anche Papa... una rivoluzione? Perché il Papa, quando diventa Papa, è un gesuita che è diventato Papa e quindi porta nel papato questi elementi qui, quindi hanno una rilevanza assoluta per la Chiesa. No, ma assolutamente. Vladimir, e poi l'accostamento deve venire, ovvio, con Putin. Anche lui ha parlato di omosessuali ieri. Ha detto se Berlusconi fosse stato omosessuale, sarebbe stato, no? Come dire, il problema è che vive con le donne. Fosse stato omosessuale, sarebbe stato intoccabile, assolutamente, no? Cos'è? La lobby, la lobby, la lobby, c'è la lobby degli omosessuali, secondo Putin. Beh, guarda, intanto Putin forse è una dimostrazione che non è che proprio i fatti italiani li sta seguendo molto bene, perché sarebbe bastato sapere che, diciamo, i motivi delle condanne più recenti adesso di Berlusconi hanno tutto a che fare con frode fiscale, con la questione CIR. Quindi, a parte questo, purtroppo la verità è un'altra, che in Russia lui li fa arrestare gli omosessuali. Basta semplicemente parlare di omosessualità che rischi il carcere o rischi una sanzione amministrativa. Quindi io sinceramente da un omofobo con cui purtroppo condivido il nome, ma solo quello, È quindi vero, quella cintura nera Vladimir. di karate, io invece ho delle cinturine meravigliose, non so, più sottili, ma Però insomma, nere anche quelle, nere. voglio assicurare Putin, i russi, eccetera, eccetera, che in Italia non è vero che se sei gay non vai in galera, assolutamente no. Beh, insomma, perché? Cioè, voglio dire, che mica in Italia va in galera in quanto gay, no? Ma neanche in quanto eterosessuale va in galera, No, cioè non è, certo, questo cioè sì. per fortuna, cioè noi abbiamo avuto un periodo in cui era un reato l'omosessualità, anche in Italia, voglio dire, ma c'è stato invece un altro Vladimir in Russia che aveva depenalizzato l'omosessualità, che era Lenin, poi c'è stato invece il baffone Stalin che ha messo i gulag per i gay, Ad e adesso avvenire, abbiamo questo nuovo omofobo che è omofobo, Putin, va bene. purtroppo. L'omofobo Putin che del debbio aveva a fianco ieri Prodi. L'ha visto Prodi con Putin? Erano lì a fianco e Putin ha detto: oh, qua Romano Prodi, che insieme a Silvio Berlusconi è il mio più grande amico in Italia. Il sobbalzo di Prodi in quel momento che diceva: well, come dire, Ma insomma, ma ci insomma, mangiamo i tortellini. l'accostamento Berlusconi, Prodi, era lì a dire: ma come? Prodi ha avuto un momento difficile ieri. Perché? Per l'accostamento con E Berlusconi, beh, per certo. l'accostamento e poi per sentir dire questa roba, figurati, un Sì. cattolicone come Prodi Oh, tutti sarà cattoliconi. saltato. Dal debbio sono tutti cattoliconi, tutti democristiani, tutti cattoliconi. Che ci devo fare? Emigriamo e facciamo Radio Van 4 e io faccio Radio Van 4, bella! La cinquième colonne. Ci va Com'è tutto in Francia, qua no. che è il titolo La cinquième colonne, colonne Colonne. in Francia? Come si dice? Io non so il francese colonne, ma cos'è? Colonne. Colonne, ah vabbè, La cinquième colonne, conduce Paolo Del Debbio. 24 mattino. Ma chi lo consiglia a Berlusconi di dire certe cose? Ma che ubriaco! Ha comandato lui l'Italia? Ribellatevi, reagite, datevi da fare, perché la politica è sporca. Ma stiamo scherzando? Ma chi è stato al governo tutti questi anni? Oddio, in che mani siamo stati! Alessandro mio! Ciao Alessandro Milan, io sono Enzo e volevo dire buongiorno Italia, anzi forza Italia e bentornata, grazie ancora Silvio, perché tu ci fai sentire eternamente giovani, dici ma sono passati 20 anni, e beh, ma sembra oggi, 20 anni con lo stesso disco, le stesse impagabili cazzate, mentre il paese affonda. Ma forza Italia! Buongiorno Milan, ho sentito da voi, insomma, da D'Alema che diceva di essere contento di avere un lavoro che lo tiene lontano dalle beghe italiane. Ma che lavoro può avere D'Alema? Cos'è quello della fondazione? E lo chiamiamo lavoro, ma uno così. Diamogli una barca e spediamolo via, perché non ne possiamo più di questa gente qua. Milan, ho respirato, ho contato fino a 3, ma se avessi tra le mani quel forcone, stamattina lo userei sul suo culo, perché lei ha sempre dimostrato chiaramente le sue idee, ma stamattina davvero ha passato il segno. Lei meglio farebbe, anziché leggere i giornali su Radio 24, andare a dirigere il Fatto Quotidiano. Senta, desideravo sapere se i signori e le signore che si alternano dal lunedì al venerdì dialogando con lei sono pagati. perché se sì, capisco perché ridano tanto di tutto e di tutti. Forse farebbero meglio a non farlo. Oh, eccoli qua, i prezzolati, Vladimir Luxuria e Paolo Del Debbio. Secondo... Sii attento al forcone. Sì, sì, il forcone sul culo, effettivamente. No, attenzione. Quanti soldi le diamo Del Debbio per questa sveglia oggi? Ragazzi. Se, secondo me Del Debbio, quando lo chiamiamo al pomeriggio, dice può domani intervenire, ci sparerebbe in fronte, no? Invece, altro che pagato. No, ma mi che sembra pagato? Di tornare a far mattino 5. Ma che pagato, ma signora, ma che pagati, ma non paghiamo nessuno, ma Vladimir Luxuria, quanto ti paghiamo per svegliarti alle 6:30 con noi, su? Beh, è già tanto che chiamate voi me e quindi diciamo almeno non spendo la telefonata, dai. almeno paghiamo noi la telefonata, ecco, questo sì. Tra l'altro Vladimir, ci dice un ascoltatore via SMS che Putin è cintura nera di judo, non di karate. Ah, di insomma. Judo. Vabbè, io non sono degli arti marziali, non sono così esperti. Comunque è judo, non karate. Vabbè, allora, c'è Rotondi, il mio mito, Rotondi, dobbiamo farlo sentire. Ogni giorno voglio sentire Rotondi, perché per me è veramente inarrivabile per me. Sentiamolo oggi. Ma attingendo al mio repertorio democristiano, direi che è stata una spallata dorotea, nel senso che ha dato una spallata politica perché, come capita spesso a Berlusconi ed è la sua principale qualità, ha ribaltato l'agenda. La notizia non è il voto della giunta, ma la sua nuova sfida politica, il rilancio di Forza Italia, l'attacco a una politica che non funziona. Lo adoro Del Debbio, lo adoro. Beh, tutti democristiani, un altro democristiano. La spallata Dorotea. Andiamo in un bar adesso subito, Miriam Lucchetti, devi andare in un bar a chiedere scusi, che ne pensa della spallata Dorotea? E registrare 10 risposte, eh? Come fa Del Debbio, che fa i vox tra la gente. Come c'è? Andate a chiedere cos'è questa spallata Dorotea. Con lussazione o senza? No, non lo so, con lussazione o senza. Io andrò in drogheria, chiederò duetti di spallata Dorotea. Dorotea. No, poi ecco, c'è questa cosa, dobbiamo aggiungere la signora che diceva che siete pagati, voi come tutti, ma non sono pagati, perché se no non si può ridere. Ecco, io questa cosa veramente non la capisco. Siccome il paese è in difficoltà, non si potrebbe ridere. Questo è una cosa che non riuscirò mai a mettermi in testa, Vladimir, perché non si potrebbe ridere, sorridere, perché c'è la crisi e allora uno non si può svegliare col sorriso? Questo è il principio che ci fa passare molti ascoltatori. E invece no, si può? No, manteniamolo, keep smiling, manteniamo il sorriso, per carità, non toglieteci anche quello, anche perché su quello non si pagano le tasse, quindi almeno le tasse, il sorriso. Ecco, le tasse, hai citato le tasse. Allora io dico una cosa, Paolo Del Debbio, la società in questo momento, società italiana più criticata, no? Più guardata con sospetto, Equitalia. Ora io dico, avrebbero pizzicato dei dirigenti di Equitalia, dei dipendenti di Equitalia a prendere tangenti per non far pagare le tasse. Ma io dico, ma quella è la società che dovrebbe essere cristallina in tutti i suoi elementi, perché è nell'occhio del ciclone. Cioè uno legge Equitalia, le tangenti per non pagare le tasse. E che deve pensare Del Debbio? Sai, hanno fatto proprio la cosa peggiore nel punto peggiore in cui si poteva fare, come levare una sacca di sangue a uno che ha bisogno di una trasfusione, insomma, capito? Cioè, no, siamo a un livello indicibile. Spero che vadano in fondo su questa cosa, perché non vorrei che ci sia tutta una cosa sistematica dietro, e cioè tutto un lavorio all'interno di questa società, che cioè ci sia una società parallela, ecco. No, ma per carità, io voglio pensare che se appurano queste cose siano delle mele marce, se sono appurate tutti i fatti. Il problema è che siano tante queste mele marce. Vladimir, la questione è questa. No, ma la questione è questa, cioè proprio Equitalia. La questione è che l'Italia purtroppo è percepita come uno dei paesi più corrotti al mondo, 60 miliardi costa la corruzione in Italia, per questo hanno fatto quella legge votata un po' da tutti che si chiama Severino, per dare almeno la possibilità a chi dovrebbe governare e fare, diciamo, le leggi,

aumenterà quasi certamente dal 1 ottobre. Allora oggi abbiamo degli ospiti che magari ci possono aiutare a capire come si potrebbe trovare quel miliardino, almeno per, e magari anche qualcosa di più, per scongiurare l'aumento dell'IVA e anche ridurre un po' di spesa pubblica, cercare di fare qualcosa di propositivo in Italia. Che ne pensate anche voi, cari ascoltatori? 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. E voglio salutare Sergio Rizzo del Corriere della Sera, buongiorno, ben trovato Sergio. Buongiorno a tutti. Saluto anche Michele Boldrin, buongiorno, economista. No? Buongiorno. Grazie Boldrin di essere nuovamente con noi. Sergio Rizzo, per esempio, tu sul Corriere della Sera un paio di giorni fa hai fatto un bel reportage sulle 403 società partecipate dalle regioni, non sono neanche tutte perché alcune regioni non hanno fornito neppure i dati, 403 società partecipate dalle regioni che spesso portano questi enti alle voragini dei buchi di bilancio. Si potrebbe partire da lì magari per trovare quel miliardino? Si potrebbe partire da lì se avessimo delle norme costituzionali diverse, cioè che consentissero allo Stato centrale di effettivamente di intervenire su certe cose che vengono in periferia, ma purtroppo questo non è, quindi lì esiste l'autonomia totale delle regioni e quindi quei soldi lì sono soldi loro e non li può toccare lo Stato, insomma. Quindi lì c'è, come dire, un impedimento fisico, no? In qualche modo. Sul discorso generale c'è da fare una considerazione preliminare, cioè io penso che nessuna azienda al mondo avrebbe difficoltà in un momento di crisi o di tensione dei suoi conti a tagliare il 2% del bilancio, non credo, no? Non penso proprio. Beh, qui si tratta di trovare qualcosa più dello 0,1%, no? Se non sbaglio, 1 miliardo di euro su, certo, 820 miliardi di spesa pubblica, più o meno siamo da quelle parti lì. E questo però la dice lunga su come sia strutturato il bilancio dello Stato, cioè un bilancio talmente rigido che non si può manovrare neanche un centesimo, no? Anche perché, tra l'altro, non credo che sia soltanto 1 miliardo quello che serve, perché mi risulta che ci sia ancora da decidere la seconda rata dell'IMU. È chiaro. Che fine fa? Ecco, ma infatti ti chiedo questo, quando sì. Saccomanni dice, pare che dica, o l'IVA o l'IMU, è un ricatto politico o lui è un tecnico, dopo una lunga esperienza da Banca Italia, dice, ragazzi, qua i conti pubblici sono questi, non è che si può fare altrimenti. Ma penso che Saccomanni a tutto pensi, tranne che è un ricatto politico, no? Lui è un tecnico puro, è uno che viene dalla Banca d'Italia, poi magari avrà anche le sue idee, ma questo il problema è che c'è una sostanziale impossibilità di toccare il bilancio, un po' perché non si vuole scontentare nessuno. Diciamo la verità, un governo così congegnato in un paese come l'Italia è un governo che rischia di andare incontro a tutta una serie di veti incrociati da una parte e dall'altra, per cui poi alla fine non si riesce a toccare niente, no? E adesso, certo, abbiamo assistito ad annunci meravigliosi, anche questo che prima ricordavi, no? Di Destinazione Italia, cioè della nuova iniziativa per attrarre investimenti esteri. È verissimo, ma non è soltanto la giustizia civile che scoraggia gli investitori esteri. La burocrazia, le lentezze, tutto, il sistema. Paese nel quale sistema. Non si riesce neanche a capire chi è l'interlocutore, perché in molti casi accade questo, cioè arriva un investitore, dopodiché non sa con chi parlare, perché la provincia, il comune, la regione, lo Stato, il ministero. Io ho avuto occasione di scambiare quattro parole con Trigilia qualche tempo fa. Trigilia si sta occupando, il ministro della coesione, no? Dei fondi europei. Beh, mi ha detto che oggettivamente lui non si aspettava questa situazione di assoluto delirio che c'è fra le varie amministrazioni pubbliche quando si tratta di stabilire, no, come vengono impiegate certe risorse. Ma tra l'altro poi più avanti avremo anche il presidente dell'Unione delle Province Italiane, ci raggiungerà le province, questa è l'annosa questione, per esempio abolire le province potrebbe ridurre un po' di spesa pubblica, anche se loro ovviamente si difendono e dico di no. Michele Boldrin, che è un economista, St. Louis, il coordinatore nazionale di Fare per Fermare il Declino. Professor Boldrin, le chiedo intanto, partiamo dalla domanda, visto che lei ha uno sguardo anche internazionale, lei investirebbe all'estero, dall'estero in Italia, se fosse una grande azienda, visto il sistema Italia in questo momento? Beh, smetta di dire cose poco patriottiche. Poi siccome non faccio l'investitore, lasciamo che siano loro a decidere. I dati dicono che non lo fanno, ecco. Io non ho miliardi da investire, non ho l'idea di aprire una fabbrica in Italia, non sarei capace di gestirla, quindi questo qua non me lo pongo, però i dati dicono che l'investimento straniero in Italia non arriva, e non solo perché non c'è abbastanza pubblicità. Questa della roadshow è, mi sembra, l'ennesima, francamente, presa in giro di questo governo del non fare niente. Guardi, però, se Rizzo non si offende, senza intento polemico, io vorrei correggere un po', perché non è che il bilancio dello Stato è fatto in una maniera tale che non si può toccare nulla. Qui siamo di fronte a una chiarissima scelta politica, perché se non si taglia un po' di spesa pubblica da qualche parte, non è vero che tutti sono contenti. Alcuni pagano per quella spesa pubblica, qui c'è un pezzo di paese che della spesa pubblica gode poco. Forse non è la parte maggioritaria, forse la spesa pubblica è fatta in maniera tale che arriva al 51% degli italiani il beneficio, però almeno un 49% che paga, perché le tasse qualcuno le deve pagare. Poi c'è, cerchiamo di rendercene conto, punto numero. Quindi è una scelta politica che questo governo fa, e c'è qui un paradosso italiano. Negli altri paesi europei, anche nella Germania, di cui in Italia mai alcuni cercano di far diventare il mostro che ha causato i nostri guai, invece non è vero. Quando hanno fatto la grande coalizione, tanto che noi copiamo il nome, no? Grosse coalizioni, sì. L'hanno fatto proprio per fare le cose spiacevoli. Certo. Qui noi siamo al paradosso, negli altri paesi fanno questi governi che noi avevamo chiamato unità nazionale, qui insomma i due o tre partiti più grossi si mettono assieme perché nessuno dei due ha una maggioranza chiara, però assieme ovviamente hanno una stragrande maggioranza, proprio per adottare quelle misure impopolari che però obiettivamente dopo 3 anni servono un po' a tutti, raddrizzano il paese e permettono di fare un salto. Ah sì, avanti. Questo è il mistero della politica italiana, che potrebbero fare tutto. Io non lo trovo un mistero, lei ha menzionato questo mio ruolo, sì. in fare, non lo trovo un mistero, è proprio la teoria sulla quale gli altri fare l'abbiamo fondato, e cioè che questa classe politica, in particolare quella PD-PDL, adesso sono arrivati questi ragazzotti mandati lì dalla protesta della gente attraverso Grillo, che però purtroppo sanno solo protestare, non hanno idea di cosa fare, ed è un peccato. Ma invece questa classe politica, PD-PDL, è consustanziale alla burocrazia e al potere di questa spesa pubblica, per cui la ragione per cui non lo fanno è perché sarebbe come spararsi addosso. C'è un sistema che si alimenta. È un sistema che si alimenta e che ha nel corpo politico, per carità, non in tutti, sia nel PD che nel PDL, poi c'è della gente per bene, c'è della gente che proverebbe a fare l'Italia, ma che ha nel grosso del corpo politico, qui i partiti, e la spesa pubblica è la cosa di cui vivono. Ma ho capito, però sono potere, cioè, professor Boldrini, poteva sembrare questa un retaggio degli anni 70, 80, 90, no, cioè, no, è peggiorato. Dopo la crisi del 92 con la cosiddetta seconda repubblica è plateale, basta guardare tutti i numeri, la spesa pubblica è aumentata, eccetera eccetera, la tassazione è aumentata, cioè il mito dello Stato che si riduce è una fantasia in giro per il mondo in generale, ma in Italia è proprio una cosa da ridere. Cioè lo Stato italiano oggi, la politica italiana controlla tra spesa pubblica, tassazione, controllate dallo Stato, le famose regionali che menzionava giustamente Rizzo, qui se mi permette vorrei dire una cosa, c'è una soluzione a quella cosa lì, sì. Controlla ormai 3/4 dell'economia italiana. Quindi lei dice, è vero, più è vero, nazionalizzata del mondo. La spesa pubblica magari il 49% degli italiani la paga con le tasse, però se io in una società con partecipata regioni ci piazzo 5 parenti, 6 nipoti, 7 cugini, eccetera. così magari. Con l'ex politico che porta a casa 450.000, eccetera. Dunque, quella norma a cui si riferisce Rizzo ha ragione, e poi le dico anche dove potrebbero trovarlo il miliardino, anche un po' di più. Ha ragione che è così, è uno dei regaletti avvelenati del PD a un disegno finto federale totalmente folle della Lega, che ha fatto scempio dell'idea del federalismo, perché bisognerebbe buttarla via tutta quel titolo quinto e rifare tutto da capo, ma proprio, se avessero coraggio lo farebbero. Però anche è vero che si può fare l'operazione, perché è vero che sono soldi alle regioni, ma quei soldi si trasferiscono. Sì. Allora, a fronte di se esiste una partecipata regionale che fa deficit, si chiude. Non te lo finanzio. Per ogni milione di perdita della partecipata della regione, non dico nessuna perché sennò si offendono, X, Ma guarda che credo la regione X, certo, viene tolto. Però professor Boldrin, credo Sergio Rizzo di aver letto che è un progetto, per carità, ma proprio non sono sbaglio sul Corriere della Sera, di mettere appunto questo tipo di attuazione di questo tipo di programma. Beh, vediamo se lo fanno. Vediamo se lo fanno. Una cosa che già mi interessa sulla spesa, no, però un attimo mi faccia sentire, certo, perché poi devo dare anche la pubblicità. Mi faccia sentire Rizzo. Rizzo, è effettivamente così? Il governo allo studio questa idea? Dire allora, mi sono sgolato per anni su questa cosa qui, dicendo proprio esattamente quello che dice il professor Boldrin, cioè che lo Stato avrebbe una leva fondamentale, quella di chiudere il rubinetto. Allora, se tu riduci i trasferimenti, facciamo un discorso, questo discorso qui l'ho fatto a proposito per esempio del costo dei consigli regionali, no? Abbiamo fatto un conto una volta, che se i consigli regionali costassero tutti come la Lombardia, come quello della Lombardia o dell'Emilia Romagna, si sarebbero risparmiati in Italia 600 milioni di euro l'anno. Allora dici, perché non lo fanno? Non lo fanno perché c'è l'autonomia regionale, però se lo Stato facesse un ragionamento di questo tipo, secondo me, dicendo ogni regione, secondo me tu puoi funzionare con 8 euro a cittadino come funziona la Lombardia, no? Per esempio al Lazio oppure alla Sicilia, eccetera. Io ti do quei soldi lì, se tu poi ne vuoi spendere di più per il tuo consiglio regionale, la tua autonomia vuol dire che chiederai più tasse ai cittadini. Che però, no? Il risultato è sempre quello, il risultato alla fine finale è sempre quello, cioè se la regione non li prende dallo Stato, li chiede ai cittadini. Ho capito, ma intanto lo Stato chiude il circolo perverso, no? E da questo punto di vista lo potrebbe fare, solo che nessuno interessa a farlo, ha ragione Boldrin, nessuno lo vuole fare perché... Sì, perché è proprio quel circolo perverso che alimenta questo sistema privilegi, di garanzie, che si autoalimenta e si autosostiene, le clientele poi sono una cosa fondamentale. Ma quello è chiaro, quando io ho citato il nipote, il cugino, non l'ho citato a caso. Andiamo un attimo in pubblicità, siamo con Sergio Rizzo del Corriere della Sera, professor Michele Boldrin, che ci dirà qualcosa di come si può trovare questo miliardo di euro. Effettivamente mi colpisce ed è interessante la proposta, dire la società compartecipata della regione, che ne so, Veneto, Puglia, Piemonte, Campania, metteteci quello che volete, perde 1 milione di euro in un anno e io Stato trasferisco, mi trattengo quel 1 milione di euro, non lo trasferisco più alla regione. Il rischio, e da qui ripartiremo, è che però la regione poi faccia ricaduta, si faccia rivalsa sui cittadini aumentando le tasse regionali. Alla fine poi quello che interessa al cittadino medio è che comunque se lo trova in quel posto. 24 mattino. Eccoci, siamo qui alle 8:37 minuti, con noi Sergio Rizzo del Corriere della Sera e Michele Boldrin. Professor Boldrin, allora, non è che poi alla fine ricade tutto sul cittadino, era questo il punto. Dunque, guardi, le scelte sbagliate ricadono sempre sul cittadino, però se succede quello che lei dice, che potrebbe essere la reazione, almeno i cittadini della regione in questione, essendo passati direttamente dalla regione, avevano la possibilità di dire no, aspetta un attimo, questi hanno la partecipata che fa la perdita di 10 milioni e siccome non la vogliono eliminare, non vogliono eliminare la perdita e lo Stato centrale gli ha tolto il trasferimento dei 10 milioni, si lo ricaricano su di me. Sì. Non è il federalismo fiscale ancora, purtroppo, come le ho detto, hanno fatto un disastro, io lo sto dando una pezza per il disastro che Lega, certo, PDL e PD hanno fatto. Dato il disastro, è una pezza che permetterebbe almeno ai cittadini di alcune regioni di rendersi conto che sono caricati di tasse extra perché i loro politici regionali si divertono a piazzare, come ha detto lei giustamente, cugini, eccetera, eccetera, in partecipate regionali di cui... Senta, ma invece questo miliardino come lo troviamo? Se lei fosse ministro dell'economia... Devo dire che fa un po' ridere a me questa cosa, perché ne sono tante. Lei si ricorda quella famosa cosa di Giavazzi, sui sussidi? E come no? Basta ridurre del 25% circa il trasferimento a Ferrovie dello Stato, cioè a Trenitalia, e il miliardino spunta, credo siano 4 miliardi all'anno. E però poi dicono non ci sono i materiali per i pendolari, poi non lamentatevi se non ci sono i materiali di ricambio per i pendolari. Allora privatizziamo magari tutto se tiene questo paese, o solo si vuole cambiare o non si vuole cambiare. Però mi permetti di dire una cosa che a me preme un po', perché è un tema che in Italia è tabù, perché sono tutti lì che hanno paura di perdere i voti dei pensionati. Lei, come lei sa, noi siamo un paese abbastanza straordinario, che spende molto poco per i giovani, per l'educazione, oltre ad avere una scuola organizzata male, e spende 3, 4, 5 punti di PIL, che sono tanti soldi, sono 60 miliardi all'anno in più degli altri, in pensioni, molte delle quali potremmo vivere senza. Per esempio, vi sono molti pensionati, come lei sa, baby pensionati, che prendono tra un cumulo e l'altro pensioni di tipo retributivo, quindi non sì, perché hanno contribuito, ma così, per strani cosiddetti diritti acquisiti, ossia promesse clientelari fatte a suo tempo, cifre sostanziali, non serve arrivare agli scandalosi ammontari di Amato, non sto facendo populismo, parlo di 6, 7, 8, 9, 10 mila. Allora io ho fatto due calcolini, una roba vecchia che diciamo già fin dalla fondazione di fare, continuiamo a ripetere. Se noi prendiamo tutte le pensioni in essere con più di 3.500 al mese, sì, e l'unica cosa che facciamo è le ricalibriamo trattando questi signori col contributivo, cioè se hanno contribuito e se la meritano, sì, la diamo. Se no, però se col contributivo quello che adesso prende 6.500 avrebbe preso 2.950, prende 2.950. Sì, però scusi, il retro dice che così risparmio altro che per l'IVA, probabilmente anche per l'IMU. Però scusi Boldrin, il passaggio dal retributivo al contributivo è successo con la legge Fornero eccetera, non è che si può retroattivamente, lei dice invece si può retroattivamente applicare. No? Ma perché non si può retroattivamente? Perché poi c'è una Corte Costituzionale che ci dice che tutto... No, non è vero. Non credo che retroattività della legge, lo sa come funziona in Italia. Poi ci sarà un giudice, sicuramente. Ma quello è un atteggiamento che bisogna anche cambiare di nuovo. Veniamo alla scelta politica, che poi alla fine il problema è quello lì, che manca il partito che faccia gli interessi di quelli che le tasse le pagano e non godono in spesa pubblica, capisce? Lì il problema. Adesso non voglio fare propaganda pro domo mia, ma... Mi faccio essere onesto, il problema è che in Italia il partito di quelli che le tasse le pagano e la spesa pubblica non la godono non c'è, e quindi allora diventa vero quello che dice Rizzo, sì, il bilancio è stato così, è intoccabile. Sergio Rizzo, è una proposta concreta quella di Michele Boldrini, è una proposta fattibile oppure c'è appunto sempre ci sarà sempre un ricorso che verrà accolto da una consulta? Rizzo. Sui ricorsi mettetevi tutti l'anima in pace, perché questo è il paese dei ricorsi e dei controricorsi, quindi, quindi quelli li dovete dare per scontato, a meno di non fare la riforma delle riforme, che secondo me bisognerebbe fare, sarebbe quella di abolire il TAR al Consiglio di Stato, aboliamo il TAR, diciamolo forte. No, adesso sto dicendo una cosa un po' provocatoria, ma, il paradosso è che bisognerebbe fare proprio questo, no? Per fluidificare il funzionamento della pubblica amministrazione, cioè non è possibile che ogni concorso finisca al TAR e si blocchi, cioè ho visto gli ultimi concorsi per esempio per dirigenti scolastici sono fermi perché no? Quindi ci sono non so quante centinaia di ricorsi al TAR, che spesso molti di questi sono immotivati, poi invece il TAR decide in un senso, il Consiglio di Stato in un senso contrario e si riblocca tutto un'altra volta eccetera. Ma su quanto riguarda la retroattività, noi siamo un paese che continuamente fa cose retroattive, cioè il calcolo della mia pensione non avverrà più allo stesso modo in cui avveniva nel momento in cui io sono stato cominciato a lavorare. Sì. Quindi noi stiamo continuamente modificando le regole per i pensionati, no? E non si capisce perché invece non siamo mai riusciti a modificare le regole degli assegni dei pensionati che sono già in pensione. Cioè dice, visto che cambiamo quelli che stanno lavorando e avranno... soprattutto quelli che vanno che sono andati col sistema retributivo, e guardate che col sistema retributivo noi abbiamo ancora, mi pare che l'INPS fece un calcolo, qualcosa come 500.000 di baby pensionati, cioè di quelli che andarono con le vecchie regole, no? dei 14 anni, 6 mesi o 19 anni, 6 mesi, quello che è. Comunque è interessante insomma questa proposta, cioè di Boldrin, a dire prendiamo chi prende più di 3.500 euro al mese e ricalibriamo la sua pensione dal retributivo al contributivo. Se ha dato tutti i contributi per avere 3.500 o più, bene. Questo porterebbe a delle conseguenze anche paradossali, no? Cioè chi ha già consumato il suo monte contributivo si vedrebbe revocare la pensione. Sarebbero tantissimi questi, perché appunto sto dicendo quelli dei baby pensioni, quelli sono 500.000 di pensionati che rischierebbero certamente. Fatemi sentire gli ascoltatori. Renato da Torino, buongiorno Renato. Buongiorno. Lei ha una proposta da fare? Ma sì, io direi che per eliminare tutti questi sprechi che vengono da queste partecipate, da questi clientelismi e cose di questo genere, perché non facciamo una legge che chiede a tutti i comuni, a tutte le province, a tutte le regioni di pubblicare sia su per esempio cartaceo nella sede oppure su internet tutte quante le spese, le consulenze. Sì, ma Renato non chieda una nuova legge, perché tanto c'è già la legge, l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno è una nuova legge, ci sarà anche già, ma una volta che venisse anche rispettata e venissero pubblicate tutte tutti questi dati, lei Renato cosa evince da questi dati? Beh, le persone sanno. Le persone sanno. Quando devono rivotare questo consiglio comunale o questo provinciale sanno. O regionale, sanno dove hanno buttato però, i soldi, a chi li certo, hanno dati. Però Renato, purtroppo a volte le persone sanno, ma sono anche quelle persone che sono state piazzate lì inutilmente, sono appunto i cugini, i nipoti, e quindi dai, votano... Cioè, non così tante, però sa, dare magari 800 euro al mese a una persona che magari con quello ci campa la sua famiglia, suo cugino, suo nipote. Sì, ma in un comune di 4.000 persone come quello dove abito io, magari ce ne potranno essere 10, 20, 10. 30 che vengono, diciamo così, unte, ma le altre 3.900 e spingi. Vanno, leggono e dicono: ma questi qua sono delle carogne, la prossima volta non li votiamo, non li voto più. Va bene, lei dice la trasparenza totale, così i cittadini sanno. Grazie Renato. Andrei da Raffaele a Bergamo. Buongiorno Raffaele. Sì, buona giornata e grazie per l'intervento. Dica. Allora, io parto da questo presupposto: l'Italia è in una condizione di malato grave, quindi bisogna fare degli interventi consoni a questo stato di malattia. Io interverrei sui dipendenti statali, partendo dal presupposto che in Italia ultimamente 1 milione di impiegati hanno perso il posto di lavoro e fanno 40 ore alla settimana, gli statali fanno 36 ore alla settimana, portiamo gli statali a 40, riduciamo poco ma un 5% il loro stipendio, perché tutti in questo momento di crisi hanno perso del loro stipendio e del loro reddito. Quindi, interveniamo anche sulla scuola, portando 40 ore alla settimana agli insegnanti, quindi con l'obbligo di rimanere in classe facendo compiti, correggendo compiti, facendo lezioni, e nella scuola primaria, visto che in Inghilterra c'è un insegnante per ogni classe, in Inghilterra non credo che sia una delle peggiori scuole nel mondo, invece di 3-4 come siamo attualmente, portiamola almeno 2. Va bene, lei insomma dice ristrutturiamo dal punto di vista dei dipendenti pubblici, Raffaele. L'Italia, mi scusi, ma l'Italia tra 2 o 3 anni sarà peggio, ma peggio. No, ma è chiaro, i dipendenti pubblici dicono però noi abbiamo il ricalcolo degli stipendi anche bloccati da anni, abbastanza fermi, però effettivamente questa è la sua proposta, Raffaele. Allora, insieme a Sergio Rizzo del Corriere della Sera e al professor Michele Boldrin, voglio salutare anche, ci ha raggiunto il presidente dell'Unione delle Province Italiane, Antonio Saitta, che è presidente della provincia di Torino. Buongiorno Saitta, buongiorno, eccoci buongiorno. Qua. Allora, io non so se lo sa, ma su Twitter, in maniera anche un po' ironica, sul mio profilo tengo il conto delle settimane. Allora, in questa legislatura oggi si chiude la 20ª settimana decisiva per l'abolizione delle province, perché è un po' insomma, così, una presa in giro. Ecco, ieri voi avete ancora detto fermiamo tutto, la questione della proposta del ministro Del Rio, che ancora una volta ha detto aboliamo le province. Ministro Del Rio, che peraltro è del suo partito, non sarebbe invece un modo per ridurre un po' di spesa pubblica, visto che manca quel miliardino che cerchiamo per l'IMU, per l'IVA? Ma guardi, è nota l'opinione prevalente sulle province, non voglio mettermi qui attraverso. L'importante è che le decisioni che vengono assunte, anziché rispondere a una logica, come dire, un po' demagogica, abbiano degli effetti sul piano economico. La metto così, è la cosa più semplice. Si potrà dire la solita difesa delle province. Io ho avuto modo di dire ieri che questo disegno, che non vuol dire l'abolizione delle province, vuol dire il mantenimento delle province in modo formale, il trasferimento di alcune funzioni ai comuni, in modo particolare l'edilizia scolastica. Sull'edilizia scolastica noi ci occupiamo delle scuole medie superiori, gestione, manutenzione. La decisione del governo è che questo patrimonio di 5.179 edifici, dove ci sono 2.600.000 studenti, anziché avere un unico centro di spesa come ce l'abbiamo noi, si moltiplica in 5.000 centri di spesa. Qualunque economista è in grado di dire che moltiplicando i centri di spesa aumenta. Quindi lei dice che questo provvedimento fa aumentare la spesa pubblica. Allora, siccome noi all'incirca per il funzionamento degli edifici scolastici spendiamo 1.400.000 euro, no, per questo grande, perché anche le palestre, abbiamo fatto un conto molto semplice, che nel caso della provincia di Torino, però abbiamo anche altri esempi, nella provincia di Torino con un appalto unico per tutti i nostri edifici, è chiaro che riusciamo a realizzare delle economie. Allora, però, Presidente Saitta, visto che un economista qui ce l'abbiamo, il professor Boldrin, il professor Boldrin ha sentito, cioè il Presidente dell'Unione Province dice, se trasferiamo da un ente la provincia che gestisce edifici scolastici a 5.179 centri di spesa, quanti sono gli edifici scolastici, alla fine questo riassetto delle province andrà a far pagare di più di spesa pubblica. È un discorso che regge da economista? Boldrin. Dipende dagli incentivi dei centri. Se poi i centri si fa anche la cosina seria, e cioè gli si rende responsabili di finanziare di nuovo a quella spesa, non è per niente che aumenti. Ma sa, l'argomento che sto sentendo è molto tipico. Io mi rendo conto che ovviamente il presidente di dell'associazione che vive su X dica che X senza di X si muore, va assolutamente finanziato. Peccato che sia abbastanza evidente che così non è. Per esempio, se lei guarda quasi tutte le province italiane, quelle classiche almeno, di solito, con grande frequenza, il palazzo della provincia, il palazzo della prefettura sono dei bei palazzi antichi in centro della città, specialmente nella bella provincia italiana. Una delle cose che manca platealmente nell'Italia turistica sono dei belli hotel in centro città, di quelli di livello internazionale che attraggono un certo tipo di turismo. Se noi chiudiamo le province, o perlomeno trasferiamo in periferia, in palazzotti grigi e di cemento, le autorità provinciali, potremmo vendere questi bei palazzi a delle belle catene alberghiere. Sembra quasi punitivo nei palazzotti grigi. Ma è una battuta chiaramente. Sì, lo so, ma non c'è di punitivo, è semplicemente un tentativo di utilizzare appropriatamente il patrimonio storico delle città italiane. Ora, questo non sarà vero per tutte le province, ma quest'anno che mi sono girato il paese ne ho visti a decine di palazzi della provincia fantastici, faremo degli hotel da 4, 5, 6 stelle eccezionali. Secondo me ognuno di loro si potrebbe vendere a qualche decina di milioni di euro a qualche catena alberghiera, con desiderio di portare la gente a Lecce piuttosto che a Parma, a Biella piuttosto che a Foggia. E credo che potrebbe essere un utile contributo alla riduzione del debito. Da fare, non so, Presidente Saitta vuole replicare su questo punto? Com'è il palazzo della provincia di Torino? Io non lo conosco. No, sia onesto, è un bel palazzo? No, è un bel palazzo, e molto spesso devo dire che i palazzi della provincia c'è anche la prefettura, e questo richiama il tema della riorganizzazione delle prefetture, ahimè. Però, siccome parlava un economista, io volevo riprendere, se mi permette, quel ragionamento di prima, no? Perché anch'io ho fatto studi economici e ho una grande passione. Quanto appalto il riscaldamento di tutte le scuole nella mia provincia, spento 2,5 euro a metro cubo riscaldato. Abbiamo fatto il conto medio dei comuni, spendono il doppio, compreso il comune di Torino. Sono economie di scala queste, no? Vuol dire che raddoppia. Se io devo gestire l'appalto per i miei edifici con un unico centro di spesa, anziché dare all'esterno incarichi di progettazione, selezione lavori e collaudo, aumenta. Il costo della sede 18%, io spendo il 4%. Il governo vuol togliere le province, ma si pone anche il problema di come concretamente risparmiare, perché come cittadino, se alla fine di questa operazione, per rispondere a una logica comprensibile politica e prevalente demagogica, di più, come cittadino, allora questa decisione porta a un aumento di 700 milioni in più di costi. Eccolo qua. No, decida 700 milioni. Sergio Rizzi, io purtroppo non ho tempo per farti replicare, mi dispiace molto perché so che su questo tema sei molto preparato, però dice il presidente Saitta, magari sarà tema di una prossima puntata, volete fare questa cosa del rimodulare le province, alla fine da nostri calcoli costa 700 milioni di più, ma non si capisce mai niente. Ringrazio tutti, Sergio Rizzo, Michele Boldrin, il presidente del Lupi, Antonio Saitta. Ci fermiamo qui, l'appuntamento è a lunedì 6:30. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi, dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di cosa sia la vita dei cittadini. E quando dicono la stabilità del governo per il popolo, non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono?